107. Minestra di erbe passate. Prendete un mazzo di bietola, uno di spinaci, un cesto o cespo di lattuga e uno spicchio di cavolo cappuccio. Alla bietola togliete le costole più grosse. Trinciate tutte queste erbe all'ingrosso e tenetele per alcune ore nell'acqua fresca. Fate un battuto con un quarto di cipolla e tutti gli odori, cioè prezzemolo, sedano, carota e qualche foglia di basilico oppure di aneto. Mettetelo al fuoco con un pezzetto di burro e quando sarà ben colorito versate sul medesimo le dette erbe alquanto grondanti, insieme con alcuni pomodori a pezzi e con una patata tagliata a fette. Condite con sale e pepe e lasciate bollire, rimescolando spesso. Quando le erbe saranno ristrette, versate acqua calda e fatele cuocere tanto che divengano disfatte. Allora passatele per istaccio, sul quale rimarrà lo scarto di buce e filamenti, e servitevi del sugo passato per cuocervi del riso o per bagnare una zuppa. Ma prima assaggiatelo per aggiungere condimento e specialmente del burro, che sarà quasi sempre necessario. Le dette minestre servitele con parmigiano a parte, ma vi prevengo di non tenerle troppo dense, onde non sembrino impiastri.